Ciao Matteo. Ciao, come va? Bene, bene. Sto andando a recuperare le quattro figlie a scuola. Le tre a scuola e uno all'asilo. Vabbè. Ah, ok. Non sei Enrico, quello delle penne stilografiche? No, sono un altro. Senti, no, sono matto. Sei Emanuele, quindi giustamente non sei Enrico. Raccontami la passione che stai cercando di tramandare. No, la passione è quella degli scout. Mi hai fatto riflettere adesso, perché proprio ieri mattina... Sì. Dovevo andare agli scout mia figlia e mi ha esordito, ma oggi non aveva per niente di andarci. Io sono rimasto come un pesce lesso. Cioè, perché tu eri anche convinto, eri convinto che lei ci volesse andare proprio a tutti i costi anche. Vabbè, è il primo anno, le altre volte ne è sempre stata contenta, però in effetti non mi sono mai posto il problema che... Certo, era normale che noi adesso voglia andare. Non avevo in mente. Ma io guarda, ho questa sensazione... Ieri sono come un pesce lesso, ma è possibile che non è... come è possibile? Io ho questa sensazione, so di dire una boiata, una roba sessista, eccetera, eccetera, eccetera. La sensazione però è che lo scout sia una roba da maschio. L'ho detta e ti saluto. Grazie Emanuele, ciao, buona giornata. Ciao, infatti, ciao. A riprova, Paolino Corleoni e Tiziano Bonini sono degli scout e sono maschi, giusto? 20 anni fa. Stiamo a Milano, andiamo da Maurizio. Pronto Maurizio? Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, tu quanti figli hai? Io ne ho uno. E cosa gli fai fare? Una passione della montagna. Aspetta, ce l'hai tu o ce l'ha lui? Adesso ce l'ha anche lui. Sono riuscito a coinvolgerlo. Cosa gli fai fare? L'ho fatto prima sciare e poi arrampicare, però ha 7 anni. Cioè, adesso ha 7 anni? Adesso ha 7 anni. E quindi quando ha cominciato? Ha cominciato a 3 anni a sciare. ma non è legale, secondo me. E scia molto bene. E i commenti degli amici erano gli stessi che dici tu. Chiamiamo il telefono azzurro. Eh beh, te credo. Però mi piace che dice subito papà, e scia molto bene. Te credo. C'ha 7 anni, scia quasi da più tempo di me, sto povero bambino. E arrampicare, può arrampicare a 7 anni? E può arrampicare a 7 anni, e siccome temevo che fosse una cosa per lui un po' noiosa, ho coinvolto dei suoi compagni di classe. Pure. Quindi il venerdì porto mio figlio e 3 bambini ad arrampicare in palestra, e hanno il miraggio poi di fare l'uscita su roccia appena ci sarà una bella giornata di tempo. Senti Maurizio, e poi ti saluto, la moglie cosa dice? Qualsiasi cosa capita a lui, a te sarà peggio. Benissimo.